finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. ...22:47 minuti primi in questo istante. Tornano le voci in diretta. Dopo il buon elettrodo con prove elettriche di trasmissione. Beh, potrebbe essere un'idea per una nuova trasmissione. Prove tecniche di trasmissione. E siete sempre all'ascolto sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Della banda romana e laziale, e questa è 25 o'clock. Noi continuiamo a sentirci soli, sì, abbiamo bisogno di compagnia, e anche in questa puntata abbiamo ospiti che andremo a presentare tra poco. Dopo avervi ricordato i contatti, 0649 1750, il numero è sempre quello, eh? Il sito di Radio Onda Rossa è raggiungibile al www.ondarossa.info, sito attraverso il quale rimanere aggiornati con le notizie che vengono registrate, i podcast delle trasmissioni. E attenzione, attenzione, non ci crederete, ma andando a cliccare sul palinsesto nella giornata di mercoledì, andando a cliccare su 25 o'clock, troverete tutto aggiornato. Eh sì, abbiamo caricato tutte le interviste, i nostri deliri. Quindi se volete andatevi a riascoltare qualcosa. Potete, sì. No, dico, però non è da noi tanta precisione ed esattezza, insomma. Vabbè, gli errori sono tutti lì, eh. Tutto il nostro disagio viene registrato. Anche il vostro, Se volete scambiare un po' di disagio, le nostre email 25 o'clock@ondarossa.info o fantasma@ondarossa.info. Se volete scrivere alla redazione di Radio Onda Rossa, ondarossa@ondarossa.info. Radio Onda Rossa, radio libera nell'etere dal 1977, senza pubblicità, senza sponsor, senza padrini, senza padroni. Libertà che viene mantenuta grazie a voi che ci sostenete e potete continuare a farlo, oltre che partecipando alle iniziative che magari più tardi andremo a ricordare, anche sostenendo direttamente attraverso il sito, quindi andando a cliccare su Sostieni. Sarete indirizzati in una pagina PayPal o PayPal. Oppure attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volci 56 00185, Roma San Lollo. E dai, eh. Noi abbiamo scelto un pezzo per rompere il ghiaccio, poi andremo subito a presentare gli ospiti di questa sera. Questo è da un disco che è passato qui, su queste frequenze, più volte. Il disco è Parlami Ancora, loro sono i Kina, L'altra faccia. Ed ecco, ritornati dopo i Kina. Perché abbiamo scelto questo brano? Perché niente, vabbè, ci sono diversi motivi. Vabbè, uno è la passione comune con uno dei componenti degli Ira del Baccano, che questa sera ci sono venuti a trovare qui a Radio Onda Rossa. E l'altro perché parla della forza del sogno. E ben No, puoi parlare anche il microfono. Oh, buonasera, Ira del Baccano. Ciao Dario. Ciao. Ciao a tutti. Va bene, un giro di presentazione. Abbiamo Alessandro. Ciao, Alessandro, chitarra e sintetizzatori. Luca Primo, basso elettrico. Alessandro Salvi, batteria. E c'è un altro componente che è presente energeticamente, ma non fisicamente con noi. No, fisicamente sta già dormendo. C'è dei ritmi. Sì, il Malerba è andato a casa a dormire. Il Malerba. Sì. Bene, bene, l'altra chitarra. Insomma, sono venuti qui gli Ira del Baccano, formazione romana, insomma, della provincia di Roma. Sì, direi provincia. Direi provincia. Castelli e città. Castelli romani, appunto. Come descrivere? No, perché potrebbe venire in mente che fate psichedelia, no? Potrebbe venire in mente. Vi ci ritrovate in questa definizione, in questa gabbia descrittiva? Sì, in fondo sì, o in parte. Fondamentalmente facciamo rock strumentale, quindi come influenza andiamo dalla psichedelia al prog, tutto il rock 70, anche il metal anni 80 e 90, quindi varie cose, insomma. Insomma, senza seguire, insomma, uno schema preciso o rincorrere un genere particolare. Diciamo senza seguire un suono in particolare, seguendo magari più certe attitudini. Quindi l'attitudine della psichedelia per certe cose, certe parti più gemmate, oppure quando bisogna essere un pochino più duri e distorti, cose un po' più metal. Così via, insomma. Ok, noi prego una Luca. Grande apertura alla sperimentazione musicale in generale, cioè ci piace sperimentarci e confrontarci e vedere quello che viene fuori, però senza una chiusura mentale verso la musica. Ok, perfetto. Io direi dopo queste prime linee introduttive iniziare subito a far capire agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa di che cosa stiamo parlando. E sono venuti questa sera Ira del Baccano a presentarci il loro ultimo lavoro, che è Terra 42. Dopo scopriremo anche forse perché si chiama Terra 42. E noi iniziamo così, come inizia il disco. Ok? Ira del Baccano. ad improbabilità infinita è un nuovo e meraviglioso modo di coprire distanze interstellari in pochi secondi senza star lì a gingillarsi nell'iperspazio. Quando il motore ad improbabilità raggiunge l'improbabilità infinita, esso passa per ogni concepibile punto di ogni concepibile universo quasi simultaneamente. In altre parole, non sarete mai certi di dove andrete a finire o di quale specie sarete al vostro arrivo. È perciò importante vestirsi di conseguenza. Il motore ad improbabilità infinita fu inventato svolgendo ricerche sulle improbabilità finita, spesso usata per rompere il ghiaccio alle feste facendo saltare simultaneamente tutte le molecole della biancheria dell'ospite di 30 centimetri sulla sinistra, secondo la teoria dell'indeterminazione. Molti autorevoli fisici protestarono vibratamente, un po' perché squalificava la scienza, ma soprattutto perché non riuscivano a farsi invitare a quel genere di feste. Wow, succederà ogni volta che premiamo quel pulsante? Molto probabile, sì. Oh, credo che il terrestre stia per vomitare. Oh, fallo nel cestino, primate, ho la nave nuova. Oh, cielo. Oh, e dai. Siamo alla normalità. Ci siamo, ha funzionato. E allora abbiamo ascoltato dall'ultimo lavoro Terra 42 dell'Ira del Baccano, perché insomma mi hanno giustamente cazziato l'Ira del Baccano, perché prima li ho annunciati come gli Ira del Baccano. Perché? Perché mi avete cazziato? Cazziarti, Perché? No, l'Ira del Baccano, non gli Ira del Baccano. Perché le parole sono importanti, quindi c'è quella L con l'apostrofo. Usiamola, insomma. Usiamola. Che peraltro alcune tecnologie non vi permettono. Non ci permettono, infatti spesso abbiamo avuto qualche problema, noi spesso abbiamo problemi con la tecnologia, in realtà. Chi ci conosce personalmente lo sa. E spesso non abbiamo potuto usare questa L con l'apostrofo. Quindi la gente troverà in giro per internet Ira del Baccano sul sito, L senza apostrofo. Però è l'ira del baccano. Cos'è l'ira del baccano? È un nome che non significa nulla. Molto direttamente, l'ha coniato il Malerba, il chitarrista che non c'è, una sera, perché dovevamo trovare un nome per la band nel cambio. E siccome abbiamo cominciato a scrivere, lui all'inizio, mi ricordo, scrisse l'era del baccano, però era troppo, sì, troppo new age, non deve avere senso che non l'abbia, esatto. Quindi facciamo l'ira, che era un po', come dire, rappresenta un po' più i nostri caratteri. Allora, un nome che spinge all'esplorazione, insomma, nel trovare significati, e magari non ci si arriva mai. Sì, esatto. Eravate savi quella sera? No, eravamo ubriachi, ovviamente. Oh, tra l'altro, come ero ubriaco, l'autore di un libro che è Guida Galattica per autostoppisti, che scrisse appunto il primo nocciolo della sua opera, pare ubriaco, quindi insomma, sì, forse sì, ci ha messo da Gazzadams, si dice che fosse ubriaco. E il primo brano di apertura è una lunga suite, come si dice. Sono 32 6. minuti. 32 però minuti. Non è una suite, fa troppo Merletti Prog, strani testi. Noi non ce l'abbiamo i testi, quindi. È un pezzo di 32 minuti. Nel disco è divisa in parti per praticità, né più né meno, ma è un solo pezzo, va sentito dall'inizio alla fine. Quindi The Infinite Improbability Drive, motore di improbabilità, motore di improbabilità, oddio, è la versione aiutami originale inglese di quello che in italiano è stato tradotto come motore a propulsione di improbabilità infinita. No, bello, questa difficoltà. Però riesco a incepparmi sia in inglese che in italiano, ma è bellissimo, lo dico. Che è sfuggito a voi stessi. Cioè, noi stiamo cercando di definire qualcosa che è indefinibile, che potrebbe essere qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, in qualsiasi, esatto, punto dello spazio. Vedi, non riusciamo, insomma, a catturare lo spirito. Questo mi fa piacere. E insomma, sì, questo era il brano di apertura. Come ci siete arrivati? con a comporre tutto questo pezzo, sì, con tantissimo tempo, tantissime prove fondamentalmente. No, sinceramente neanche ricordo più quanto ci abbiamo messo per fare questo pezzo. La primissima versione almeno 3-4 anni fa. Ma sì, forse anche di più. Quindi è stato giusto un gemmare continuamente, senza prefiggere obiettivi, senza canoni, cioè gemmare, suonare, registrare. E poi a un certo punto vi ritrovate il disco pronto, insomma. No, ci ritroviamo il pezzo pronto. Che era quello. Sì. Che noi in 3 anni facciamo un pezzo. Esatto. Perché così proviamo 4 volte in 3 anni. Esatto. Più o meno. Quanto dura però una singola prova? Ah, ma dura, no, noi un'ora e mezza, due. Siamo molto, da questo punto di vista siamo molto efficaci, efficienti, devo dire. Oggi anche di più. Oggi 2 ore, abbiamo suonato prima di venire qui, 2 ore. Vabbè, è un classico di 25 o'clock. Chi viene qui, insomma, a trovarci per chiacchierare, di solito lo fa dopo le prove, se era un caso, boh. Sì, più o meno era quello che ci dicevamo anche prima fuori onda, cioè invece qual è il percorso che ha portato a questo disco, attraverso quali movimenti, attraverso quali pure vicissitudini, no? Cambi di formazione, eccetera, eccetera, per cui si parte da un suono e si arriva a un altro. Cioè nel 2014 si produce questo disco qui, che però nella vostra storia, nella vostra esperienza, comunque è un punto di arrivo, insomma. Ma diciamo che l'ira del Baccano come entità strumentale nasce nel 2005-2006 e con questa formazione solamente un altro bassista, e nel 2008 abbiamo fatto uscire un primo disco solamente su internet, e abbiamo messo in download gratuito e registrato live in concerto, e tutto è nato da lì fondamentalmente. Tra l'altro, no, mi pare di ricordare che è stato registrato questo album live ed era uno dei vostri primi concerti. Era il sbaglio? Era, diciamo, tecnicamente era il primo concerto di quella line up, sì. È la prima volta che suonavamo quei pezzi su un palco. Io e il Malerba erano almeno 3-4 anni che non facevamo un concerto. Quello fu, sì, il primo concerto, sì. Diciamo è rimasto impresso anche emotivamente questo lavoro, perché appunto è stato registrato così, distinto, senza, insomma, rielaborazioni in studio. No, infatti, a parte che appunto l'idea non era quella di fare un album all'epoca. Avevamo registrato perché io avevo lo studio di registrazione, c'era la possibilità di registrare, e quindi dal palco abbiamo registrato tutto molti tracce. Poi riascoltando abbiamo visto che abbiamo suonato bene, che i pezzi funzionavano, e era l'epoca di MySpace, quindi abbiamo fatto ho mixato, e dopo avermi ho mixato senza cambiare niente, senza fare editing, niente, puro mix, e abbiamo tenuto gli errori, tutto quello come era stato suonato il concerto, e l'abbiamo messo online, e da lì è nato tutto. Una cosa che ricordo con piacere di quel disco è stato che non abbiamo mandato in giro neanche una mail chiedendo una recensione, e dopo 2-3 mesi incominciarono ad arrivare a noi mail di persone che avevano siti da tutto il mondo, dicendo: abbiamo fatto la recensione del vostro, l'abbiamo scaricato e fatta la recensione, oppure che ci chiedevano se potevano fare recensione, diciamo, ma l'abbiamo messo gratuitamente su internet, fate quello che volete, insomma. Perfetto. Basta che lo scrivete che siamo noi, fate come volete. Questo quando era uscito? È il 2009 download, sì. Ok. Stavamo appunto le meravigliose chiacchierate che si fanno qui a microfoni spenti. Cerchiamo di riproporle un po'. Stavamo parlando appunto di come ci si arriva a un sound, no? Gli elementi che ritroviamo adesso negli Ira del Baccano magari hanno radici che ritroviamo nei vostri progetti precedenti. Come si arriva a questo sound, insomma? Se se c'è una risposta, poi. Ma non c'è una risposta diciamo reale a questa cosa, perché ognuno di noi ha un'estrazione musicale diversa, quindi io vengo da un suono, Luca, il bassista, da un altro, quindi è stata solamente una miscela di sperimentare, cioè cercare di intanto divertirci, e questa è la cosa che a cui noi teniamo molto. Ma poi è stato così, cioè è stato un caso, è il fatto di non crearsi dei canoni, cioè suonare liberi senza preconcetti è importante, perché lì cominci a creare, quindi è nato così, e il piacere è stato questo, anche il suono, a prescindere rispetto fra di noi che abbiamo, però è una questione proprio di sound, cioè ti devi piacere quello che ti colpisce, no? Quindi io questo l'ho trovato subito quando sono entrato con loro, era il 2006, vero? 2005, ricordo, che sbaglio sempre. E mi colpì loro erano un due, erano un sound. Racconto questa piccola cosa perché è interessante, cioè io poi vengo totalmente da un sound, sebbene rock, ma anche un misto funk, un blues, quindi da un'estrazione totalmente diversa. Mi colpì molto il sound di Alessandro e Roberto, e chiesi, loro cercavano un batterista, e nacque così la cosa, cioè chiesi se avevano bisogno, e da lì è nato il tutto. In realtà io non vengo da un genere ben definito, a me piace molto la libertà, cioè il fatto di suonare liberi, e con loro è stato, e così è nato tutto un percorso. Poi abbiamo cambiato insomma altri musicisti, e ultimamente poi è entrato da tre anni. Ultimamente. tre anni. Beh, perché noi abbiamo una lunga storia. Per i nostri tempi è sì, i nostri tempi pochissimo. Sono e con Luca è cambiato totalmente tutto, cioè c'è stato un'alchimia, ecco, questa potrebbe essere una definizione. Siccome sono importanti le parole, e le parole dette al momento giusto colpiscono, a me ha colpito insomma la tua enfasi sulla libertà, su questo senso di suonare liberi. E poi per il genere che fate, che è una sorta di, cioè voi proponete dei viaggi di esplorazione, e l'esplorazione va fatta in libertà, senza percorrere su binari prestabiliti, quindi diciamo che la musica non ha confini. Quindi forse sarà perché ognuno di noi ha avuto anche un ascolto sin dall'adolescenza o anche prima, abituati a un tipo di suono, immagini sempre questi grandi gruppi che c'erano, insomma anche loro sperimentavano, quindi, e creavano un suono. Non a caso i più grandi gruppi insomma sono quelli storici che conosciamo noi negli anni 70, perché erano aperti a questo tipo di discorso. È un po' la stessa diciamo linea, ed è un piacere, è il piacere di suonare senza canoni che ti prende, ti e quindi non hai il preconcetto che c'è oggi, no? Perché oggi bisogna anche dire che c'è molto, piace molto stare nei canoni più o meno, quindi perché li rende un po' più sicuri, no? Quindi è un tipo di approccio con la musica sicuramente efficace, diretto, però non si rischia mai, cioè si ferma lì c'è un confine e non vai oltre. Questo è il discorso. Noi ci divertiamo, quando suoniamo ci divertiamo, sperimentiamo e via, e le cose escono così. E rischiamo in questo caso. No, ma poi il rock come sensazione è una musica, una vibrazione di protesta, di libertà. E, no, riflettevo appunto su questo, no? Sul fatto che voi, pur non, non avendo testi, pur non dicendo nulla, però con l'attitudine che cercate di cioè la, diciamo, l'esperienza che voi avete magari in sala prove, gemmando quel senso di libertà, quel, quel modo di suonare libero che tu hai riconosciuto entrando con l'ira del Baccano, e poi ritrasmettendolo su disco o nei concerti, è un messaggio, è un messaggio di libertà, insomma. Non lo so, una sorta di sottotesto che ti entra nel cervello, no? Questa attitudine di suonare libero, che magari era più frequente negli anni 60 e 70, e che per quello che dici tu, insomma, poi per la canalizzazione dei generi si è perso un po' questa... Sì, perché è una sorta di, mettiamolo anche in questa maniera, forse... almeno personalmente, io essendo anche un po' ribelle, quindi mi sono sempre trovato a combattere con alcuni colleghi proprio di questo, riguardo a questo discorso, cioè il fatto di non rimanere inscatolati, quindi chiusi, ma è proprio una forma di protesta anche per me, cioè quindi è una conquista, non fa, non, non è il discorso di arrivare lì, è una cosa personale, quindi la band la vive così, cioè io me la vivo con questa maniera, libertà in tutto, che non è legato solamente alla musica, quindi le sfumature sono tante, diciamo, dentro questo c'è questa libertà, c'è una protesta. Per quanto mi riguarda, anche per, sicuramente nella band è la stessa, abbiamo la stessa linea, quindi è un discorso anche molto più ampio. Bene, bene, no. Volevi aggiungere qualcosa, Alessandro? No, riguardo a questo, anche perché Sandro è sicuramente di noi quello, almeno di me e dell'altro chitarrista, e quello che ha più esperienza, diciamo, come musicista professionista, parlo di tour, diciamo lui e Luca sono i professionisti da questo punto di vista, e quindi capisco anche quello che il suo discorso di ribellione anche all'interno di quello che è la professionalità del musicista, che ad esempio io devo dire non conosco, perché per me è passione pura, nel senso non ho mai, lui è, lo fa per mestiere, cioè la batteria. Però si può traslare questo discorso, questa sensazione, sia nel mondo della musica professionale, certo, ma anche lo puoi ritrovare anche nell'ambiente underground, no? Nel sì, seguire sicuramente un genere prestabilito, quindi nel suonare di culto, nel suonare classico. C'è gente che segue anche solamente nomi dei gruppi, che forma gruppi perché un nome va di moda. Forse a volte manca anche un po' l'abitudine ad ascoltare con le orecchie, diciamo con le proprie orecchie, senza doversi appunto attenere alle etichette di genere. Ma potrebbe essere che a volte al giorno d'oggi manca un po' questa cosa, no? Cioè di avere un ascolto aperto semplicemente a quello che ti piace. Perché tornando al disco nostro, l'obiettivo che secondo me è raggiunto è che riascoltando il disco noi sentiamo solo quello che ci piace, e quindi in questo senso l'obiettivo è stato raggiunto, però dietro il lavoro era quello proprio di tirare fuori da ogni nota non tanto quello che magari qualcuno si poteva aspettare, anche chiaramente, ma soprattutto quello che ci piaceva a noi. No, vabbè, poi insomma ascoltando tutto il disco, e questa sera ne ascolteremo gran parte, e c'è proprio la sensazione di entrare un po', poi dico la mia, poi di entrare in una macchina del tempo, cioè è uno spaziare di diverse emozioni, si parte insomma dal... si va a toccare un po' la psiche anche degli anni 60, anche cose remote, c'è il riff pesantone, doom, E non lo so, questo mi nell'ascolto mi ha fatto un po' spaziare appunto in libertà su diverse emozioni, e insomma il messaggio di libertà io l'ho particolarmente recepito. E prego, professore. Sono una nota così, anche per poi, come dire, a me piace insomma che diventi sempre più una stanzetta insomma dove si fanno quattro chiacchiere. La cosa così anche ironica, no, che ho avvertito, è che poi quello che dovrebbe essere il professionista diceva: no, io sono ribelle, a me spacca tutto, eccetera eccetera. Invece quello che dice: io no, io sono solo per passione, il tecnico, diciamo, è colui che invece a cui piace di più. Ecco, qual è questo, dov'è? Magari possiamo pure sentire una traccia, ci pensiamo e rispondete dopo come preferite. È questa, cioè la commistione fra emotività e tecnica, un po' il segreto delle cose che poi alla fine, non del successo, perché delle cose che alla fine vi piacciono innanzitutto a voi stessi, no, e anche a noi. Sicuramente, a parte dell'alchimia di cui parlava Sandro, cioè il suo suonare la batteria in una certa maniera, il mio organizzare le cose in una certa maniera, i pezzi, gli arrangiamenti, alla fine è quello che crea poi la nostra musica. Quindi sicuramente, ad esempio, nella band io sono quello che organizza le cose, che come dire, il manager da certi punti di vista, che fa funzionare la macchina, e che funziona grazie a ogni, cioè la peculiarità è che non sarebbe la stessa senza nessuno di questi componenti all'interno. Però scusa, tornando a quello che dicevi, praticamente per noi magari che ci viviamo la musica anche professionalmente, e quindi dovendo essere inquadrati magari spesso in degli schemi molto precisi, suonare così significa proprio appunto essere liberi e dare questo messaggio anche di vedere che si può fare volendo, ma è un riferimento appunto come diceva Sandro magari a alcuni nostri amici o colleghi che devono per forza rifarsi, ma non è una polemica per forza, però devono per forza rifarsi a degli schemi ben precisi, da fusion, jazz, quello e l'altro, tutto bellissimo, però non c'è solo quello, e trovare un'esperienza come questa invece ti libera, è un messaggio anche non sociale ma umano, sì. Pure perché se la musica si è evoluta non è grazie a quelli che si sono attenuti agli schemi del genere, esatto, insomma, e se siamo arrivati al 2014, esatto, sentendo di tutto di più, forse è proprio da fare agli errori, diciamo, a chi ha usato sbagliare. Ha rischiato, poi... no? Sì, esatto. E noi rischiamo. Lo dimostra anche Dario, che ancora non riesce a dare un'etichetta al gruppo, a dire che genere facciamo, anche se ci prova costantemente. Sì, sì, vabbè. E vado elencando, insomma, le varie etichette. E però dopo un po' di chiacchiere sul vostro sound, lasciamo che le note del vostro ultimo lavoro parlino un po' per noi, e ci ascoltiamo qualcos'altro? Sì. siamo arrivati, sai com'è? Invece no. E che ci ascoltiamo, Alessandro? Proseguiamo con il motore? Andiamo sulla seconda parte del motore, dai. Perché così no? Facciamo vedere che non è quello che sembrava, diventerà qualcos'altro. Dai, Ira del Baccano, questo è 25 o'clock, 23:36, Radio Onda Rossa. E questa era la seconda parte del motore di improbabilità infinita. Da Terra 42. E perché Terra 42? Insomma, vabbè, insomma, per gli amanti della guida galattica per autostoppisti è abbastanza chiaro, insomma. Vabbè, e perché, insomma, 42 che cos'è? Che cos'è 42? 42 è la risposta alla domanda fondamentale. Poi ognuno dovrebbe andare a cercare cos'è questa domanda fondamentale, perché questo è il punto. Noi sappiamo la risposta, la domanda non la sappiamo in realtà. Quanto è stato necessario aspettare per avere la risposta alla domanda fondamentale che non si conosce? Forse c'è l'esperto qui dei... Non mi ricordo i milioni di... Vabbè, no, sempre perché, insomma, noi siamo le risposte non ce l'abbiamo. A descrivere non ci riusciamo, però, insomma, ci viene in aiuto la guida galattica per autostopisti, che ci ricorda che cos'è la risposta alla domanda fondamentale. Milioni e milioni di anni fa, una razza di esseri pandimensionali iperintelligenti, stufi marci del continuo battibeccare sul senso della vita, incaricarono due dei loro più brillanti elementi di progettare e realizzare uno stupendo supercomputer per calcolare la risposta alla vita, l'universo e tutto quanto. Oh, pensiero profondo! Noi vogliamo che tu ci dia la risposta. La risposta a che cosa? La risposta alla vita, all'universo, a tutto quanto. Ci piacerebbe una risposta, una semplice. Ci devo pensare. Ritornate in questo posto tra 7 milioni e mezzo di anni in punto. È finito. Oh no, continua. Sono tornato. Quando? 7 milioni e mezzo di anni dopo? Esatto, è così. Risposta per voi? Sì, ma non vi piacerà. Non importa, dobbiamo conoscerla. Va bene. La risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto è... Sì, ci ho pensato attentamente, questa, 42. Figurati! No, no! Certo, sarebbe stato più semplice se avessi conosciuto la domanda. Ma era la domanda! La domanda fondamentale! Di tutto quanto! Questa non è una domanda. Solo quando conoscerete la domanda comprenderete la risposta. E dacci la domanda fondamentale! Non posso. Ma c'è qualcuno che può. Un computer che calcolerà la domanda fondamentale. Un computer di tale infinita complessità che la vita stessa farà parte della sua matrice operativa. E voi assumerete nuove e più primitive forme ed entrerete nel computer a navigare i 10 milioni di anni di vita del suo programma. Io progetterò questo computer per voi e si chiamerà... E insomma, questa è l'origine, insomma, della risposta. L'origine della risposta, esatto. No, io ritornerei sul tema della libertà. E, cioè, immagino che l'Ira del Baccano nasce come gruppo strumentale, oppure voi avevate magari in principio l'idea di cercare una voce, cioè... Non ti stai proponendo, no? No. Beh, insomma, no, se vuole, no. In un'altra vita, magari. No, insomma, l'idea del progetto nasce come strumentale, come ci siete arrivati? L'Ira del Baccano nasce come strumentale, nel senso che il momento in cui abbiamo deciso ufficialmente di diventare strumentali, siamo diventati ufficialmente l'Ira del Baccano. C'è stato, diciamo, il passaggio da quello che erano i Losing of Frequencies, che erano il gruppo, il nome del gruppo, come si chiamava prima, e all'Ira del Baccano. Abbiamo provato per tantissimo tempo, per io, Malerba e Sandro, quindi due chitarre, addirittura è solo batteria, poi è arrivato un bassista, abbiamo cercato voci per continuare quella che era l'esperienza precedente, che era con la voce. E a un certo punto, dopo che è passato tantissimo tempo, eravamo diventati strumentali, solamente che non avevamo ancora consapevolezza, quindi eravamo ancora fermi e ci mancava quella libertà di cui parlava prima Sandro. Vi siete a un certo punto resi conto che quella libertà, cioè, magari la dovevamo prendere, e con la consapevolezza arrivava pure questa libertà, perché comunque in quel momento dentro di noi pensavamo ancora prima o poi troveremo una voce. Questo significava fare dei versi, fare dei ritornelli in qualche maniera. No, infatti mi hai anticipato, perché mi interessava appunto questo, visto che venite da un'esperienza dove la voce c'era, cosa... Vabbè, poi insomma con gli ascolti un po' si capisce, però è cambiato poi la metodologia compositiva, la scrittura dei pezzi, se ci fosse mai una scrittura, vi ha allargato le possibilità di espressione questa assenza di voce? Sicuramente sì, come strumentista e per esempio come bassista in particolare, l'assenza della voce ti dà molta più libertà, perché non hai... Ovviamente quando sei uno strumento di accompagnamento devi riferirti sempre o alla voce o allo strumento che sta più in evidenza, però in particolare la voce va rispettata, tra virgolette, e quindi deve passare tutto in secondo piano. Invece, non essendoci, sei molto più libero di uscire. A me piace molto usare lo strumento in maniera, diciamo, la più ampia possibile, e quindi questo me l'ha permesso. Per esempio, parlo proprio singolarmente. Poi io ho avuto la fortuna di vedervi dal vivo aprendo The Church of Misery, e sai che sembra che uno sta facendo le sviolinate, no? Però forse è proprio il basso che spesso prende non so, tipo dei picchi di attenzione, come dire. Non che sia centrale, ma ha dei suoi momenti di centralità. Io ho notato un po' questo, cioè magari pure come strumento classicamente non è così solito avere questi picchi di attenzione all'interno dei brani. Io ho notato cioè, quasi come fosse una voce, no? Ci sono delle parti dove il basso, insomma, diventa centrale. Sì, infatti è un continuo scambio, e questo è la cosa che rende così libera, diciamo, la nostra musica, perché automaticamente puoi esplorare cose che non potresti fare appunto accompagnando una voce, o il classico momento, diciamo, in cui accompagni uno strumento solista. Ma c'è sempre la reciprocità in questa cosa. E poi un'altra cosa che, insomma, mi ha fatto riflettere ascoltando l'ultimo lavoro è nella lunghezza dei brani, nel senso che essendo un tipo di musica molto esplorativa, la lunghezza del brano non risulta, cioè, diciamo, diventa la lunghezza dei brani diventa proprio un fondamento narrativo, no? Non lo so, i pezzi li trovo molto narrativi, cioè come nella descrizione di un viaggio. Io credo che faccia parte del discorso di non darsi il limite nella struttura, no? Perché se chiaramente segui una struttura che sia principalmente, parlo proprio come se fossero canzoni, strofa, ritornello, allora chiaramente alla fine devi trovare a darti dei limiti proprio temporali. E invece così non ci sono questi limiti, quindi sfori solo perché ha senso quello che sta succedendo in quel momento. Però nel senso, a me da ascoltatore mi viene in mente un altro gruppo, che sono gli Ozzy Tentacles, dove quello che rimane impresso a me è proprio la ritmica dei brani, che danno poi magari la caratteristica, a mio avviso, degli Ozzy Tentacles. Per quanto riguarda voi, anche se insomma mi viene in mente insomma Ozzy Tentacles come paragone, ma per tipo d'ascolto, nei vostri brani invece non c'è la caratteristica principale della ritmica, che è una cosa che potrebbe insomma venire facile se ci ricordiamo insomma tutta la storia del prog, le varie masturbazioni ritmiche. Insomma, volevo porre l'accento su questa narrativa dell'esplorazione. Ma il tutto è dettato da un cioè quello che noi facciamo, sicuramente sono anche le influenze che abbiamo, quindi quello comunque rimane, il subconscious ti rimane questa impronta. Solitamente in un genere così, per fare presa, per fare colpo, si usa molto io adesso parlo nello specifico tecnicamente, si gioca molto sulla ritmica, perché dà proprio questo senso di cambio continuo, quindi comunque è più scientifico che altro. Io mi rifarei un po' più ai concept album, quindi dei racconti. A me viene in mente, per esempio, mi vengono a mente gli Yes, che sono un gruppo storico storici, Genesis, eccetera, eccetera. Non ci rifacciamo a loro, ovviamente, però effettivamente dà più la sensazione di un racconto, quindi è differente da un gruppo più meccanico, ecco, oserei dire più meccanico, quindi quello è più per musicisti, strumentisti. È diverso l'approccio invece che abbiamo noi cerchiamo di contenerci anche, ovviamente, perché abbiamo anche sperimentato con cose strane, ma non funzionano, cioè, dobbiamo essere anche coerenti con noi stessi e rispettare quello che sono le radici, perché di più non si può fare, non si può andare contro natura, cioè suonando, bisogna fare le cose che vengono più spontanee, e questo rende questo disco anche un l'idea proprio di un racconto. Comunque l'immagine viene, cioè ti crea un'immagine diciamo che nel moderno, nel prog, sì, oggi, specialmente i ragazzi, io dico questo perché ci tengo molto, lo vedono più come un tecnicismo, quindi stare attenti a che tempo usare, quindi dispari, matematica, radici quadrate, eccetera, eccetera. La musica in realtà non è così, io credo molto nella pulsazione, e la pulsazione la devi avere dentro. Il cuore, semplicemente questo, non c'è altro. Quindi quando si suona si ride, cioè lo senti, sono vibrazioni e sono le vibrazioni che devi avvertire, è questo che funziona, ma è perché tu senti così, no, altrimenti si avverte una forzatura nel mostrare il proprio tecnicismo, certo. Freddo e assistante, esatto, no? Esatto, esattamente, esattamente, sì. Non credo che abbiamo mai provato una cosa più di 4-5 volte. Se dopo 4-5 volte non funziona, è perché è troppo stressante suonarla e non vogliamo suonare stressati, dobbiamo divertirci. Quindi o ci viene, deve essere tecnica, ma deve essere una cosa che ci viene naturale, sennò significa che non va fatta, perché non, cioè, ci mettiamo pure sto stress mentre suoniamo e alla fine qua, cioè, già siamo vecchi. Dopo diventa l'esplorazione dello stress e non della libertà, esatto, no? Che è il contrario del perché ci vediamo e suoniamo ogni settimana, tecnici ma non cervellotici, forse. Esatto, perché quando cioè il fatto che lo strumento, per esempio il basso o la batteria, che sono strumenti di accompagnamento, però abbiano momenti di risalto, come dicevi, anche di diciamo, di evidenza è dovuto al fatto che nel momento in cui per esempio il basso è in evidenza vuol dire che l'atmosfera è un'altra rispetto al momento in cui c'è la batteria in risalto. Chiaramente la dinamica sarà molto più, cioè è molto più questo che non credo l'ostentazione. Comunque cerchiamo proprio di stare attenti a non caderci nel discorso dell'ostentazione. Dopo tanti anni che suoni sai fare tante cose, ma non perché le sai fare devi per forza fare tutte insieme sempre e comunque. Penso che ne abbiamo parlato già prima. Voi riascoltate comunque questo ultimo disco? Cioè in macchina, tipo, ve lo mettete? Sì. Mentre andate nei rispettivi. Però in una maniera o nell'altra tocca riascoltarlo. È strano effettivamente riascoltarlo. Non... Oddio, strano. È talmente tanto che ci lavoriamo, ci abbiamo lavorato così tanto su questo disco, quindi almeno per me, non so per gli altri, c'è la soddisfazione ovviamente di sentirlo finito e di vederlo finito fisicamente per la prima volta, avere un CD e tra poco anche dei vinili in mano, e continuo a essere soddisfatto. Ovviamente siamo già oltre tutti noi mentalmente, siamo già su nuove idee, nuovi pezzi, nuove cose, e consideriamo però anche ho ancora soddisfazione. No, ovviamente non lo ascolto più come prima e non posso sapere come, vista la struttura dei pezzi, come diciamo prima fuori onda, il fatto che ad esempio The Improbability Drive non si ripete quasi per nulla per 30 minuti e non posso capire come la può ascoltare un altro per la prima volta. Io sono 4 anni che la suono, quindi lo so che succederà al 26esimo minuto e mi manca un po' questa cosa, però ancora devo dire che per fortuna ho soddisfazione quando lo ascolto. Io posso dire che appena abbiamo finito di registrarlo me lo so riascoltato un sacco di volte, anche a parte i primi messaggi e tutto, ma era finito, ma me lo so continuare ad ascoltare tante volte, un po' per autocompiacimento, diciamo, automasturbazione, però anche perché mi prendeva bene. Allora, noi nel frattempo siamo entrati nel pieno della 25esima ora. Che cos'è la 25esima ora? È l'ora che noi usiamo rubare ai ritmi serrati della produttività, della gabbia che ci viene imposta, e noi ci allarghiamo addirittura il tempo e ci creiamo questa 25esima ora. E qui di solito nella 25esima ora, durante il varcare della soglia della mezzanotte, ci rifacciamo un po' a queste sonorità, e noi abbiamo ascoltato in queste settimane il vostro ultimo lavoro, che è uscito da poco, però era ascoltabile attraverso Bandcamp, insomma, se lo volete ascoltare, se vi è destato insomma interesse, lo potete ascoltare liberamente su Bandcamp. E noi col professore insomma ce lo siamo ascoltati più volte e non so, ci aveva interessato la produzione proprio del suono, e che ci riporta forse, vabbè, poi adesso apriamo delle riflessioni magari. Una produzione che non sembra italiana, cioè, nel senso, a me viene in mente un altro gruppo che sono i Causa Sui, non so se non so, a livello di produzione mi ricordava delle produzioni più nordiche. Questo lo chiedo direttamente a te, Alessandro, da tecnico. Avete sbagliato latitudine. Infatti a me vengono sinceramente prima parlare di Jodrick. Personalmente, da un certo punto di vista, ci tengo molto più vicino ai Motor Psycho, ad esempio, specialmente come attitudine. E i Motor Psycho durante la produzione sono stati alcuni riferimenti, ad esempio, alcuni dischi di Motor Psycho in quanto a suoni, a frequenze. Quindi c'è un po'. Il disco è prodotto molto bene. Il disco è prodotto molto bene. No. Ma chi l'ha prodotto? Diciamo, è proprio pagato noi. È proprio autoprodotto. Esatto. Quindi avete curato insomma anche il suono. E quindi è un caso. È stato ovviamente un poi un'ottima scelta dove abbiamo registrato ai Cazzo Studios del nostro amico Matteo, e che è un tecnico eccezionale, quindi è riuscito a portare quello che volevo che io fosse, il suono, che è il suono della band, è il suono naturale della band, che è la cosa fondamentale per noi, racchiudere quello come sogniamo. Sono i nostri amplificatori, non sono state fatte tantissime sovraincisioni, le chitarre sono due in gran parte del disco. Abbiamo comunque, anche se è stato il primo disco in studio, quindi registrato multitraccia uno alla volta, abbiamo cercato di mantenere il più possibile un approccio almeno mentalmente live. Non è stato fatto editing sulla batteria come si fa di solito, quindi abbiamo fatto 2-3 take di batteria, abbiamo preso quella che ci piaceva di più, ci abbiamo suonato sopra, abbiamo suonato sopra la batteria, e cercando di mantenere questa freschezza. E tutto è stato alla fine anche abbastanza veloce, il disco è stato mixato in 3 giorni e mezzo forse, sono 60 minuti, perché abbiamo lavorato bene prima e perché andava bene, cioè mentre lavoravamo il suono era fresco, è quello che ci piaceva, eravamo noi, mm-hmm. E il disco era finito, il disco si fa da solo se uno vuole, ha le idee chiare ed ha un proprio suono. Beh, soprattutto poi se ci lavora, come dici te, 3 anni su una traccia, insomma, poi... Sì, però quella è la tensione creativa della composizione. Con le idee chiare. Ma il problema, noi ad esempio avevamo il problema contrario, essendo una band fondamentalmente live, il nostro problema è stato entrare in studio e registrare una volta, perché noi viviamo molto della tensione del guardarci di quello che succede. Quindi abbiamo avuto dei problemi, ad esempio, da quel punto di vista, che è stata un'altra sfida che abbiamo superato, visto il risultato. Poi prima parlavi della scrittura, no? Che in realtà non c'è mai la scrittura intesa proprio come scrittura sul pentagramma delle cose, e questo diventa, secondo me, anche tensione creativa nel momento in cui deve piacere a tutti quello che sta succedendo in quel momento, deve essere fissato e diventa la canzone. Secondo me è un passaggio importante per chi viene anche come me, come Alessandro, da quegli schemi della, diciamo, professione, che invece è sempre l'ottavo, il sedicesimo, invece qui, cioè, ci guardiamo, ci piace, rimane, allora ok, questo è. Quindi così, andando proprio nell'intimo, in sala prove, se prova il pezzo, se suona, hai detto 5, 6, 7 volte, vedate uno sguardo, è fatto, basta, finita. L'alchimia è che a un certo punto si decide che è fatto, da quando ci sono io nel gruppo. E poi dopo lo risuonate, così. Però. Certo. Il problema è ricordarlo dopo, infatti. Okay. Ci registriamo. No, però, diciamo, Fondamentalmente registriamo ore e ore e ore di prove. Quindi solitamente un pezzo come The Infinite Improbability Drive è nato nel così tanto tempo, perché sono veramente decine e decine di ore di prove che poi riascoltiamo. E vediamo magari quelle che sono le di 45 minuti di improvvisazione, alcune idee che sono venute, ci lavoriamo sopra. Il riff che deve essere fatto in maniera giusta e, come dire, deve essere molto serrato e preciso di ritmica, ci lavoriamo meglio, perché se bisogna andare all'unisono si deve andare all'unisono, non si può andare così, ognuno come gli pare. Quelle che sono le parti invece più libere di jam, e lavoriamo su quelle lì e andiamo avanti così, e piano piano assembliamo. A un certo punto arriva un momento, a volte succede dopo qualche anno, in cui diciamo ok, è finita, cioè adesso c'è quel pezzo di 32 minuti in cui quasi non si ripete niente per 32 minuti. Siamo arrivati a un certo punto in cui abbiamo detto, fondamentalmente senza saperlo, siamo ritornati per la prima volta su un riff già suonato, abbiamo deciso quella è la fine, cioè abbiamo, sto viaggio è concluso, è finito, ci abbiamo messo 32 minuti ma l'abbiamo finito qua, questo è dove deve finire, perché sennò cominciamo a forzare anche noi stessi, e lì è finito il pezzo. E ricordiamolo, disco uscito su Subsound. Esatto, Subsound Records. Come siete arrivati a Subsound? Piccola etichetta, insomma, vogliamo spendere due parole sulla Subsound. Certo. Subsound è un'etichetta qui, diciamo, di Roma, dei Castelli, mettiamola così, che lavora, ha fatto uscire tantissimi artisti, come i The Floor, i nostri amici di The Floor che fanno Industrial, i Zippo, Arrangement Theory, e il, diciamo, il boss della Subsound, Davide Cantone, è un grande appassionato di musica e di tanti tipi di musica, Quindi una delle cose che ci piace, ad esempio, della Zoom Sound è stato il fatto di... si rivolge anche a generi differenti. Davide cerca gruppi che gli dicano qualcosa in diversi, nei diversi generi, non è un'etichetta di settore specifico. E i contatti sono nati in maniera molto naturale, attraverso amici e i suoi contatti anche con lo studio che abbiamo registrato e così via. Quindi quando lui poi ha saputo che era in produzione il nuovo disco, abbiamo cominciato a parlare, a capire insomma le idee della band e dell'etichetta, i modi di lavorare. E finito il disco io l'abbiamo fatto ascoltare e abbiamo trovato un accordo, come si dice, dei nostri obiettivi comuni, e adesso abbiamo iniziato questa avventura. Il disco è uscito, la versione CD è uscito 10 giorni fa in tutto il mondo. Adesso il vinile uscirà a novembre e adesso lavoriamo insieme a lui giorno per giorno per cercare di, come dire, propagare questa musica e la band. Siamo in promozione, diciamo. Siamo in promozione, decisamente, come sentite. E insomma, io credo che niente o poche cose accadono per caso. Noi del tutto in maniera naturale ci siamo sveliamo qualcosa che accadrà tra 2 settimane, perché stiamo organizzando qui negli studi di Radio Onda Rossa un live per Alberto, il nostro fagiolino. Attualmente recluso a Rebibbia per gli infami fatti insomma di Genova 2001, e quindi proveremo qui un concerto per lui tra 2 settimane con Lily Refrain, anche lei, insomma, ce ne siamo resi conto questa sera parlando con Lira del Baccano, anche la uscita su Subsound. Quindi voglio vedere in tutto un legame, insomma, di vibrazioni, di sensazioni tra persone con una certa, insomma, sensibilità. Niente, volevo ricordare questo. Poi lo ricorderemo nelle prossime, nei prossimi giorni, insomma. E quindi tra 2 settimane Lily Refrain, il 29 di ottobre qui negli studi di Radio Onda Rossa. E io volevo passare dopo queste chiacchiere volevo passare un altro brano, poi passiamo magari ai saluti. E vabbè, qua forziamo noi, qua decidiamo noi, professore, qua vabbè, è arrivato il momento di Vulcano. Okay. Insomma, vabbè, il nostro il pezzo, insomma, che ci piace di più qui a 25 O'Clock, e poi ci rincontriamo dopo. Questo è Vulcano, loro sono Lira del Baccano. E questo era Vulcano, il pezzo che andava a chiudere l'ultimo lavoro dell'Ira del Baccano, Terra 42. E noi con questo brano andiamo un po' a chiudere la chiacchierata con gli psichedelici, i liberi, l'Ira del Baccano. E ci sarà un concerto proprio di presentazione dell'ultimo lavoro, e poi per i dettagli su dove suoneranno, insomma, li troverete facilmente insomma, cercando su internet l'Ira del Baccano, tutti i dettagli li troverete facilmente. E niente, siamo arrivati ai saluti, l'Ira del Baccano. E grazie, insomma, di essere venuti qui a 25 O'Clock. Grazie di averci fatto viaggiare con il vostro ultimo lavoro. E grazie a voi dell'ospitalità. Grazie a voi. Grazie. Delle grazie. Birre. Tutto qua. Vabbè, è una costante di 25 O'Clock. Va bene, noi senz'altro, insomma, dato che già avevi anticipato che la vostra testa è già immersa in altri progetti, noi ovviamente li aspettiamo con fervore. 7-8 anni, noi siamo sempre qui, non vi preoccupate. Noi abbiamo tempo. Prendete il vostro tempo. Sicuramente, noi abbiamo tempo. Benissimo. Allora, mezzanotte e mezza, noi niente, ci ascoltiamo magari così nel finire. Allora, proprio Sussurri io volevo mandare e poi ritorniamo in voce. Questo è Sussurri, l'Ira del Baccano, sempre, sempre 25 O'Clock. Radio Onda Rossa 25 o'clock, 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. 06491750. Come sa bene il Sor Banana, la doppia H. Del venerdì all'ora di pranzo, niente da venne. Abbiamo avuto il piacere di essere in compagnia con l'Ira del Baccano. Vi ricordiamo alcuni appuntamenti delle prossime ore, a partire da oggi praticamente, da questo momento in cui parte lo sciopero nazionale del 16 ottobre, appunto, dei facchini. Di tutti gli addetti ai magazzini. Autori di importanti lotte per rivendicare la propria dignità, rivendicare appunto condizioni di vita più favorevoli e condizioni salariali dignitose. Quindi domani in via di Salone, cioè domani, già da stamattina, in via di Salone Presidio, davanti ai magazzini che sono presenti in quella zona, concentramento appunto per lo sciopero e la manifestazione nazionale. Invece per dopodomani, ovvero per domani meglio, dato che rubiamo il tempo, quindi venerdì 17 ottobre 2014, fatte una pizza, cena a sostegno di Radio Onda Rossa, allora Acrobax. Allora Acrobax, via della Vasca Navale 6, fatte una pizza, cena a sostegno di Radio Onda Rossa, allora Acrobax. Alle 20.30 pizza sperimentale farcita, ai Mastri Pizzaioli del Cinodromo, a seguire proiezioni video dall'archivio storico di Ror. Lotte all'Italia dall'archivio di Alfio Di Bella. DJ set punk new wave revival 70 80 90, invece a conclusione della serata, a cura di Take It Easy. 00:47 minuti primi e dopo un rapido consulto col fantasma abbiamo deciso che la prossima settimana mandiamo i dischi. Il 29 invece ci stiamo attrezzando per questo live set con Lily Refrain e credo che incominceremo, diciamo, un po' prima, proprio perché Lily Refrain si colloca al confine fra i suoni di prove tecniche di trasmissione e quelli di 25 o'clock, quindi inizieremo alle 10. Tenetevi pronti e pronte. Questa è Radio Onda Rossa, la radio senza padroni e senza pubblicità. fantasma, ci siamo con questa, andiamo a chiudere 25 o'clock. Dicevamo, la prossima puntata invece faremo un po' così, un riassunto di queste 4-5 puntate piuttosto movimentate, in cui comunque abbiamo avuto il piacere di ascoltare altrettante, interloquire anche con altrettante band così della zona qui delle nostre parti, e avremo modo pure di riascoltare con un po' di calma, magari cercando di metterli nella cornice giusta al di fuori appunto della intervista. Niente, andiamo a dire il palinsesto della radio, appunto, che è quello del giovedì, non prima di non aver ricordato quello che testè all'inizio della trasmissione andavi a ricordare te, cioè che andando sul mercoledì di Radio Onda Rossa, sito www.ondarossa.info, mercoledì troverete pure sul link 25 o'clock e il link se apre qualcosa che vi permetterà di riascoltare essenzialmente, di andare a ricordare tutte le cose che abbiamo fatto qui, le cose più significative almeno negli ultimi tempi. Allora, il giovedì si comincia con alle 8 la lettura delle prime pagine dei giornali e la rassegna stampa cittadina, i redazionali e quelle che sono appunto gli aggiornamenti per quanto succede nella città del resto del mondo, il giornale radio alle 13, alle 13.30 allo spazio comunicazione, a seguire la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa Visionari. In seguito Attica Blues, oltre la Black Music, non so se Sonia e Pelo hanno ripreso a trasmettere, alle 17 la Schiena del Sol, Profondo Rosa c'è, attenzione, sì, è stata sì, ce l'hai, ci sono? Sì, no. quindi è una, cioè, sì, mail ufficiale in cui Profondo Rosa, perché noi di solito insomma trasmettiamo la nostra incertezza totale. Categorico stavolta, ma sono sicuro, vedi, il mondo cambia, Profondo Rosa domani c'è. Il giornale radio alle 19.30, ovviamente Bella Elena e Bella Scarf. Giornale radio 19.30, alle 20 lo spazio comunicazione, alle 20.15 Allegro con Fuoco, forse in versione replica, perché non so se il Mortimer è in condizioni ancora di poter trasmettere, alle 21 replica di Noctibus Panis, alle 22 ovviamente i nostri cuginetti di Apostasia. Sì, no, ma non so, c'ho un dubbio, una domanda. Se per caso, no? Sì. Io. Sì. Venerdì sera. Sì. Avessi tanta fame. Ah, e magari voglia di pizza. Voglia di pizza. Voglia e se di... magari volessi unire questa voglia, sì, di pizza alla voglia di mantenere in vita questa radio che è libera dal 1977, cioè. Non lo so, una mia. C'è un modo per unire. Garantisco, l'ha fatta spontanea, non c'è stato nessuno sprone. Sì, sì. Sì, ricordiamolo, venerdì pomeriggio lo Agrobax, pizza, video e take it easy. Insomma, mettete un po' voi la combinazione di queste cose. Pensate che cosa possa uscire fuori. Bisogna. Soprattutto se ci avete pochi spiccioli, perché insomma prezzi popolarissimi. Sì, sì, 5 euro una pizza, con bruschetta. 5 pizze diverse, compresi. Ma ci sarà anche la pizza Radio Onda Rossa? Non lo so. Però c'è sta pizza vegana. Questo sì, sì. Questo pure è certo, come che domani c'è Profondo Rosa, vedi? Bello. Ormai viviamo di certezze, niente più dubbi. Va bene. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, ci sentiamo mercoledì prossimo, ci vediamo venerdì se venite a mangiare la pizza e ciccia, così, bella. Dai, è bella, resistenti.